che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Hey! Hey! 16 e 6 minuti, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Senza protestare, e se fai il bravo ti faremo... 06 49 17 50 è il numero di telefono. Ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare. Firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! Ma prima ancora di entrare nel vivo della trasmissione, visto che oggi è l'ultimo di carnevale, vi facciamo ascoltare uno spottino e vi invitiamo tutte e tutti alla festa organizzata in sottoscrizione di questa radio. Lucernario Occupato e Radio Onda Rossa presentano martedì 4 marzo ore 22 Lucernario Occupato, Via delle Scienze 1, Università La Sapienza. Carnevale con Radio Onda Rossa. Dalle 22 DJ set pop 70, 80, 90, 0, trash con Take It Easy, More Fire and Gas. Il tutto a sostegno di Radio Onda Rossa. Lucernario Occupato, Via delle Scienze 1, Università La Sapienza, martedì 4 marzo, ore 22. Otto minuti, il numero di telefono ve l'abbiamo dato e anche un'indicazione per passare la sera di carnevale. Per quanto riguarda questo spazio radiofonico, abbiamo anche un blog, oradibuco.noblogs.org. E vi anticipiamo che sono due gli argomenti di quest'oggi: da una parte la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nelle pulizie delle scuole, che affronteremo subito. E poi passeremo a, così, a darvi ancora qualche elemento di riflessione sulla nuova ministra e sui tre sottosegretari che nel frattempo sono stati nominati. In questi ultimi mesi, ancora di più in queste ultime settimane, avrete sentito delle molte iniziative di lotta, appunto, di chi lavora nelle pulizie delle scuole. Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori che lavorano per cooperative e quindi di esternalizzazione delle pulizie, non dei collaboratori scolastici assunti dal MIUR. Le iniziative di lotta sono molte, perché sono stati tagliati pesantemente i soldi, insomma i finanziamenti ministeriali per le pulizie, e quindi il primo rischio è quello della perdita di posti di lavoro, di salario, e subito dopo poi appunto a rimetterci sono studenti e studentesse che si trovano in scuole in cui le pulizie sono sempre peggiori. Ma entriamo subito nel vivo. Dovremmo avere al telefono insomma un compagno dell'USB che già ha partecipato a questa trasmissione, che chiama dalla Campania. Pronto, ci senti? Sì, buongiorno a tutti. Ciao. E senti, noi ti abbiamo appunto chiamato perché insomma ci piacerebbe avere un po' un quadro di quello che sta succedendo. Insomma, abbiamo letto delle occupazioni in Campania, delle lavoratrici incatenate a Torino, delle proteste in Puglia, qui nel Lazio. Insomma, ormai è un fatto che investe tutto il paese. Sì. Sì, avevamo occupato le scuole, è stato un gesto estremo per una situazione estrema che eravamo a rischio di licenziamento. Ci hanno poi promesso una proroga che al 28 febbraio ci hanno dato una proroga fino al 31 marzo, quindi noi al 31 marzo avremo di nuovo il problema del licenziamento. Senti, la proroga su cos'è? Lo puoi spiegare a chi ci ascolta? Allora, la proroga in effetti sarebbe in realtà una proroga retributiva più che altro, perché comunque nelle altre regioni interessate, comunque la gara Consip, che è il vero problema che sta creando licenziamenti e riduzioni di salario, parte comunque. Però diciamo che al 31 marzo c'è questa proroga retributiva, solo per la Campania, il Lazio e la Calabria. Una proroga a tutti gli effetti, in quanto non avendo nelle nostre regioni l'attuazione della gara Consip ci permette di non essere al momento licenziati. In questo momento è in atto una riunione, che io sappia, sulla nostra vertenza, e quindi siamo in attesa di avere notizie a riguardo. Intanto si registra il caos più totale su tutto il territorio nazionale, perché nonostante la proroga ci sono aziende che comunque stanno applicando le riduzioni di salario. Noi riscontriamo, e dopo magari insomma una collega del Lazio spiegherà meglio, riscontriamo dei contratti a un'ora e mezza, una cosa veramente vergognosa. In un'ora e mezza pretendono che dei lavoratori... Un'ora e mezza al giorno, quindi? Un'ora e mezza al giorno. Sta succedendo la stessa cosa che è successa nel Veneto alcuni mesi fa, dove praticamente a causa di contratti all'ora e mezza al giorno poi le scuole sono state costrette a chiudere per problemi igienici sanitari. Gli stessi sindaci, i genitori degli alunni hanno organizzato delle manifestazioni di protesta al MIUR, proprio perché si resero conto che era impossibile gestire la scuola con delle riduzioni orarie del genere. Poi insomma, al di là del problema proprio di noi lavoratori, noi percepiamo attualmente 800 euro al mese. Proporre politicamente dei salari di 200-300 euro al mese a me sembra proprio vergognoso, una cosa vergognosa. Senti, ma al di là della gara Consip, c'è un investimento minore da parte del Ministero sulle pulizie, quindi come dire, di fondi destinati all'esternalizzazione delle pulizie? Nasce così il problema? Sì, una riduzione del 50% del finanziamento, che loro praticamente, a differenza degli anni passati, oggi retribuiscono la gara cioè a secondo degli accantonamenti dei posti ATA, che sono 11.800 posti di collaboratori scolastici. Quindi loro pagano l'equivalente di 11.800 stipendi di collaboratori scolastici. E quindi questo chiaramente ha comportato licenziamenti e riduzioni di salario su tutto il territorio nazionale. Tutto a discapito chiaramente della scuola e degli stessi lavoratori, perché comunque noi pensiamo che questa gara in effetti pensi soltanto a razionalizzare le risorse, ma poi non si preoccupa minimamente di fare macelleria sociale e di mantenere le scuole sporche. Ecco perché noi ci permettiamo di rivendicare come soluzione l'internalizzazione del servizio, cioè l'assunzione ADA di noi lavoratori, in quanto non solo razionalizzerebbe le risorse, forse anche meglio della Conti, con un incasso annuo di 60 milioni di euro all'anno, i soldi che praticamente prendono gli intermediari, darebbe dignità a questa soluzione, di dignità economica e retributiva ai lavoratori, e allo stesso tempo darebbe un servizio di pulizia qualitativo nelle scuole. Questo è quello che stiamo cercando di spiegare anche al nuovo ministro Giannini. Oggi, come ho detto prima, c'è una riunione, speriamo che praticamente si prendano delle soluzioni serie su questa situazione, su questa vertente. Senti Maurizio, se non vuoi aggiungere altro, noi ti salutiamo e magari ci risentiamo nelle prossime settimane per sapere per esempio come è andato l'incontro di oggi e come continua prima insomma del 31 marzo la situazione. Sì, voglio solo aggiungere che il 14 noi faremo come USB una manifestazione a Roma sulla spending review, proprio per protestare contro la spending review. Volevo solo lanciare questo messaggio a tutti. Va bene. Grazie e vi saluto a tutti quanti. Grazie a te per la disponibilità. Ciao. Prego, prego. A questo proposito, lunedì 17 febbraio c'è stato a Pomezia, qui in provincia di Roma, l'occupazione di una scuola elementare, la scuola elementare Trilussa, da parte di queste lavoratrici e questi lavoratori che stanno subendo questo colpo quasi mortale al loro lavoro. E adesso sentiamo come i momenti dell'occupazione della sera di lunedì 17. All'interno della scuola Trilussa di Pomezia, quanti siete all'incirca? Una ventina di dipendenti? 40, all'incirca 40. Voi stasera? Siamo distribuiti nella scuola, sul tetto, abbiamo proprio occupato. Avete occupato adesso proprio? Quando avete occupato? Un paio d'ore fa. Siete arrivati a questa conclusione perché siete disperati? Disperati, certo. Dopo 20 anni ci hanno portato alla disperazione. 20 anni che lavoriamo dentro le scuole, essere trattati in questa maniera non credo che... Con i mariti disoccupati. Da 15 anni non gli danno più lavoro. Cioè, ecco come stiamo. Non credo che si possa campare così. Voi credete che questa è la soluzione che state cercando? No, non credo che sia cercando. La soluzione, ma tanto non abbiamo altro. Che farete? Andrete avanti a oltranza? Certo. Come? Questo è quello certo. Che stanno facendo i nostri colleghi in tutta Italia, diciamo. Per cui è quello che stiamo provando a fare anche noi. È l'unica cosa che ci è rimasta da fare. E questo faremo. Non ci allontaneremo da qua finché non si troverà una soluzione. Così stanno facendo giù e così si... Giù dove? Giù a Napoli, province, in tutta Italia, Puglia. In tutta Italia questa situazione. È partita da giù e sta salendo questa protesta. Non saremo solo noi, non ci fermeremo. Adesso arriverà anche in Alta Italia. Siamo 24.000 in tutte le scuole. Per cui devono trovarla una soluzione. Non è che siamo quattro scemi così, capito? Domani c'è anche una manifestazione a Roma. Domani c'è anche noi da qui non ci spostiamo, questo è poco ma sicuro. Che vi aspettate che succeda domani? Qualcosa potrà succedere, domani non succederà nulla, domani sicuramente succederà a noi non succederà nulla, succederà per i genitori un grandissimo disagio, perché questo è ovvio, per i genitori succede ai bambini, ci spiace noi per queste persone, noi siamo di Pomezia, abbiamo parenti, amici, siamo tutti qui, però non abbiamo altra soluzione, anche perché i bambini dovrebbero vivere nella sporcizia. stanno vivendo anche adesso, in Italia che ci sono stati, vivevano nella sporcizia i bambini, diciamo quello che dobbiamo dire. I genitori non sono contenti di quello che si stava facendo in questo momento, perché comunque con i tagli che ci sono stati, noi da 15 persone che eravamo in Trilussa siamo rimaste 8 persone. Facendo un paragone col passato, che cos'è che manca adesso rispetto magari a quando lavoravate a pieno regime, proprio a livello di pulizia e di attrezzature? Adesso manca tutto, mancano le ore, mancano le... Ma adesso ci sta mancando, ci viene a mancare anche il materiale, il personale. Personale che è andato in pensione. Personale che è andato in pensione non è stato rimpiazzato. E poi adesso che la ditta è quasi scomparsa, perché sono 2 mesi e non ci mandano materiale, così si sta pulendo con quello che abbiamo, i genitori non lo sanno questo. Finché non entra, che poi non si sa quello che farà la nuova ditta, perché con i tagli che ci sono stati, cioè non sappiamo, stiamo pulendo così. Hanno fatto i tagli che praticamente noi andremo a finire a lavorare un'ora al giorno, un'ora e mezza al giorno. Cioè, vorrei vedere e pulire tutte le scuole di Pomezia, parliamo di Pomezia perché siamo qui, ma tutta Italia è la stessa cosa. Cioè, vorrei vedere come si fa a pulire un'ora e mezza tutte le scuole di Pomezia. Poi, come avete fatto a occupare? Cioè, come avete fatto ad entrare? Delle pulizie, quindi abbiamo avete le chiavi. Certo. Ma lì avete, così vedo delle bottiglie, ma è vero che sono bottiglie di benzina? Sì, siamo pronti a tutto. Sì. Eccole qua. Voi avete messo bottiglie di benzina perché? Perché se ci portano alla disperazione ancora di più, siamo pronti anche da fuoco. A darci fuoco, ecco. A darci fuoco. Siamo alla disperazione. Qui si parla che ci sono persone che lavorano moglie e marito dentro a questo servizio, altre persone che lavorano solo le mogli o lavorano solo i mariti, voglio dire, è una situazione, non so, ci stanno portando a questo. E questa intervista è tratta dal Corriere della Città e aggiorniamo la vicenda dopo una giornata, quella del martedì 18, di trattative, di incontri. La mattina di mercoledì 19 la polizia è arrivata e il numero di 1-1 ha sgomberato le lavoratrici e i lavoratori. E con grossa soddisfazione del sindaco di Pomezia Fucci del Movimento 5 Stelle, che parla di uno sgombero, di una pacifico, di una situazione tranquilla, che però non risulta a chi è stato vittima dell'allontanamento, perché sono state riconosciute e anche forse denunciati e diciamo sono arrivate delle ambulanze e sono state ricoverate nell'ospedale di Pomezia. E la vicenda, come dire, è temporaneamente sospesa perché c'è stata questa proroga di un mese fino alla fine di questo mese, e dopodiché torniamo con lo stesso problema. Va anche detto, perché magari è più sfugge, che l'abbiamo detto sicuramente in altre trasmissioni, che questa questione delle pulizie nelle scuole in realtà si appoggia poi su una riduzione del personale, dei collaboratori scolastici nelle scuole, che da contratto devono pulire ma devono anche fare sorveglianza e sono distribuiti nei vari piani delle scuole, proprio perché in teoria le cattedre che stanno ai piani, che è entrato in una scuola, insomma, se lo ricorda, dovrebbero dare la visuale dei corridoi e quindi di tutto quello che succede nei piani, che non è una cosa così tanto per dire, perché poi se succede qualche cosa, immaginiamo anche insomma in una scuola primaria o in una media, spesso sono i collaboratori scolastici che vengono chiamati a rispondere, perché loro hanno questo compito di vigilanza. Ovviamente riducendo il personale, perché non deve più provvedere alle pulizie, questo però non toglie che debba comunque mantenere il compito di vigilanza, che a quel punto però, essendo il personale ridotto, non viene nemmeno più garantito. Quindi qui ci sarebbe già un'unità di intenti, no? Tra chi fa parte di cooperative o altre cose e sta conducendo questa lotta e pulisce le scuole, e chi invece diciamo è dipendente direttamente dal ministero e dovrebbe solo sorvegliare. È qualche cosa appunto che dovrebbe poi unire in una lotta comune. Ora dovremmo avere un'altra lavoratrice al telefono. Pronto, Nadia, ci senti? Sì, sono qui. Buongiorno, e ora so che Buongiorno. Tu sei al lavoro e quindi non hai potuto ascoltare, comunque abbiamo introdotto la situazione a livello nazionale e ti chiediamo a te, visto che lavori nel Lazio, nel Frusinate, qual è la situazione che si vive in questa regione? La situazione è pesante, se non di più. C'abbiamo le varie province, Frosinone, Latina, dove già il settore industriale è devastato, abbiamo perso migliaia e migliaia di posti di lavoro, di conseguenza questa ulteriore perdita di ore di lavoro, di capacità economica, sta distruggendo la serenità mentale delle persone. Io vedo che comunque c'è una schizofrenia, nel senso che i miei colleghi non sanno più quello che devono fare, stanno in questo momento vivendo delle situazioni assurde, nel senso non si perde il posto di lavoro perché strumento di una di uno sfruttamento quasi a livello di schiavismo. Guardi, un'ora al giorno di lavoro dalle 7 che ne facevamo significa che noi già ci avevamo da lottare per una internalizzazione che avrebbe dato dopo 19 anni la possibilità di pensare c'ho un lavoro, perché dopo 19 anni noi ancora non siamo in grado di dire c'ho un lavoro. Allora 35 ore pagare 800 euro significava comunque essere dei poveri. Le 35 ore oggi che ci vengono trasformate in 4-5 volte la produzione lavorativa richiesta in più a fronte di un'ora, un'ora e mezza, due ore massimo di lavoro al giorno, e quindi 200-300 euro di guadagno da riportare a casa. Qui stiamo parlando di un lavoro usurante. Stiamo parlando che a casa porteremo solo la fatica e l'usura e le patologie che da 19 anni continuiamo ad accumulare. Ci abbiamo dai 50 ai 60 anni, non siamo più dei giovani. Ci chiedono di pulire 400-500 metri quadri all'ora e di lavorare un'ora al giorno. Quindi le scuole, le nostre scuole, perché in queste scuole ci vanno i nostri dei figli, non i figli di chi decide di appaltare nelle scuole da 19 anni per poter consentire a qualcuno di poter guadagnare milioni e milioni di euro su appalti che non ci avrebbero ragione di esistere nel buon senso di una buona politica. Noi dovevamo sicuramente andare lì ad essere internalizzati in un lavoro che abbiamo fatto per anni come lavoratori socialmente utili. Noi siamo quei lavoratori che per 4-5 anni abbiamo dato le nostre mansioni a carenza d'organico. Nel Lazio tutti sanno che le scuole stavano in mano ai lavoratori socialmente utili, che aprivano, chiudevano, facevano sorvegliare, facevano di tutto. Poi stabilizzati nelle ditte perché i confederali e il Ministero del Lavoro si sono inventati una convenzione dove con le vecchie lire 356 miliardi di lire dati come incentivo su 17.000 lavoratori socialmente utili. Questi sono i grandi scandali di cui nessuno parla. Ma nel 2001 inizia questo travaglio, questo passaggio alle ditte, inizia e non finisce qui, perché ad oggi siamo allo stremo. Noi ci abbiamo da lavorare il 3, 4, 5 volte come pesantezza di lavoro in più, cosa che non riusciremo ad assicurare assolutamente la pulizia nelle scuole, però portiamo a casa 200 euro perché comunque qualcun altro ci deve mangiare sopra, perché comunque quest'Italia va a pezzi, come vanno a pezzi le famiglie, come vanno a pezzi le scuole, come vanno a pezzi gli ospedali. Quindi è ora di mettere un punto, è ora forse proprio sulla nostra storia di iniziare a mettere un punto forte e di cominciare a dire basta, ci stiamo ribellando tutti, siamo 4.000 scuole, siamo migliaia e migliaia di uomini e donne sfruttati ma non imbecilli, e questo è già qualcosa, e questo è già qualcosa, perché iniziamo a dire basta sfruttamento, perché non si può mangiare sopra un'ora di lavoro che dovrebbe produrre 400 metri quadri di pulizia. È assurdo, però dopo ci abbiamo i risultati, no, nelle scuole dove i nostri figli stanno in scuole sporche. hanno tolto perfino la pulizia d'estate, come se fosse stata superflua. Tutti sanno che d'estate noi facciamo le pulizie straordinarie, quelle che non si sarebbero mai potute fare durante l'anno, e assicuravamo scuole non solo pulite, di più. Però questo non interessa al Ministero. Al Ministero interessa semplicemente spendere di più, accontentare in modo clientelare, no? Gli amici degli amici, no? E poi alla fine che noi come famiglie, migliaia e migliaia di famiglie, di persone che comunque stavano a 800 euro, non è che stavano a pigliare miliardi, iniziano oggi a dover pensare come dover affrontare una nuova povertà e una nuova fatica peggiorata e condizioni peggiorate di lavoro nelle scuole italiane, nelle scuole pubbliche, perché la scuola pubblica questo è diventato, dove non si riesce più ad assicurare nulla, neanche la pulizia, e la pulizia sta al primo posto. Senti, ma io immagino che a livello nazionale vi stiate coordinando, ci puoi dire qualche cosa su questo? Regioni molto calde, tipo la Sicilia, tipo la Puglia, tipo la Sardegna, siamo coordinati a livello nazionale perché il problema è grave, coinvolge moltissime famiglie, moltissime persone e moltissime scuole, quindi stiamo su tutto il centro-sud, ma ci abbiamo anche notizie di scuole, lì riguardano più gli appalti storici al nord, comunque sì, adesso riguardano tutti, perché è un discorso globale dove si è fatta questa gara Consip ad un massimo ribasso, e il massimo ribasso non porta nulla di buono né per il servizio e né per i lavoratori. Praticamente, voglio dire, in un momento storico dove una crisi che ti aggredisce così pesantemente, mettiamo un discorso di questo, no, su persone che già erano per penalizzate, io penso che, voglio dire, no, non vorrei dirlo io, ma lo voglio sognare, io penso che da qui parte un forte movimento, una forte reazione, parte perché è così, perché è inaccettabile, perché poi a un certo punto si parla di sopravvivenza. Cioè, voglio dire, non è che ci hanno licenziato, a noi non ci licenziano perché su di noi ci mangiano, e questo è pesante. Quindi che io vedevo e altre 20.000 persone devono andare a scuola e correre per stravolgere chissà quanti metri quadri di pulizia, che poi alla fine lasci pure in una maniera che non è la nostra, non è questo il modo in cui noi abbiamo lavorato per anni, di conseguenza lasci una scuola indecorosa e torni a casa, no, massacrato dal lavoro e con 200 euro di stipendio d'estate, non neanche quelle, perché poi sono 10 mesi di contratto, consapevole che tutto quello serve semplicemente per far guadagnare in un appalto milionario persone che non sa neanche chi sono. Cioè, qui ci vuole l'internalizzazione, il governo lo sa, le nostre proposte sono quelle di andare a risparmiare 60 milioni di euro l'anno, che non sono pochi, ma soprattutto di avere personale dentro le scuole che possano perlomeno lavorare con i ragazzi, con i bambini, con la sorveglianza, con la pulizia, nella qualifica che ha sempre svolto nel personale ADA. Allora, assumendoci, il governo ci guadagna, certo non ci guadagnano i soldi di noi, quelli no, perché qua l'inciuccio è trasversale, però voglio dire, insomma, una botta di buona politica l'Italia se la merita, ma forse ce la meritiamo più noi, che dopo 19 anni un qualcosa ce l'aspettiamo, e se non ce lo vogliono dare siamo intenzionati a prendercelo. Nadia, questo è il discorso. Noi ti ringraziamo anche perché pensiamo appunto che la lotta vada fatta insieme tra chi è già, come dire, dipendente del ministero, come chi ti parla, insomma, certo. E voi che invece svolgete un lavoro esternalizzato, ma come giustamente tu dici, andrebbe internalizzato. Sicuramente non cascheremo nel giochetto di mettere contro due categorie di sfigati, perché quello è che di solito fanno, no? Cioè, noi non siamo in conflitto con nessuna categoria di lavoratori, noi sappiamo che il posto c'è per tutti, perché hanno tagliato su un servizio che non andava tagliato. Di conseguenza non è che noi dobbiamo fare i bidelli così, noi li facevamo i bidelli, soltanto che lo facevamo a nero. Quindi a nero non ci hanno messo neanche i contributi, ma ci hanno venuto in carenza d'organico. Noi sappiamo fare il personale ADA perché nasciamo come personale ADA. Questo è, e di conseguenza non siamo contro il personale ADA esistenti, assolutamente. Noi sappiamo che se iniziano a colpire noi, poi colpiranno tutti. E siccome a noi non è che ci hanno colpito, ci hanno proprio ammazzato, di conseguenza questo contratto noi lo difenderemo nel modo più assoluto, anche nella volontà di poter coinvolgere tutte le lotte. La nostra è una lotta importante, chi ci vuole aiutare, noi siamo pronti comunque a collaborare con qualsiasi categoria di lavoratore, no? Qualsiasi, i privati, i pubblici, perché oggi come oggi colpiti siamo tutti. Però certo, la situazione che te comporta, cioè perdere pezzi di contratto, ma al 90-95%, al 70-75%, cioè non essere più in grado di mantenere la famiglia, di non poter dire sono disoccupato, perché neanche quello, neanche gli ammortizzatori sociali, cioè noi il lavoro ce l'abbiamo a un'ora al giorno. Quindi voglio dire, è ovvio che non stiamo lì a pensare che magari il nostro la nostra controparte sia un altro lavoratore, la nostra controparte è il governo. È il governo che deve cominciare a pensare che è ora di finirla, non c'è più per nessuno. Devono cominciare a sviluppare la politica economica in modo che le famiglie tornino ad avere un potere economico e non solo la disperazione, perché poi con la disperazione nascono le brutte reazioni. Però ognuno ha la sua responsabilità, cioè non è responsabilità nostra, è responsabilità di chi l'ha causato queste cose. Sì, Nadia, è molto chiaro. Noi adesso ti ringraziamo per questo intervento, ma insomma ci risentiremo prima del 31 marzo per capire cosa succede prima della scadenza della proroga. Sì, sì, infatti quella è un'altra data calda, fatidica, sì, effettivamente è così. Ti ringraziamo. Va bene, ok, ringrazio voi, arrivederci. Ciao, ciao. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa ritmo lento, pausa pausa ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. L'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e insomma dalle testimonianze che abbiamo sentito ce n'è da parlare di scuola. Sì, cioè andava prima People Have the Power e commentavamo, ma non lo sa forse ancora il People che ha il potere, o quantomeno non lo esercita a sufficienza. E ci sembrava importante, l'avevamo accennato anche prima di questo intervento telefonico, proprio il fatto che forse una divisione o quantomeno un'indifferenza nei confronti della situazione drammatica di questi lavoratori e lavoratrici da parte di chi è stabilizzato la dobbiamo rilevare, ed è un'indifferenza suicida, lo possiamo dire tranquillamente. Nadia l'ha anche fatto capire, perché certamente tutto quello che si sta preparando anche nei fumi, non sappiamo se alcolici o di così narcisismo del Presidente del Consiglio, insomma quello che si è capito è che per noi che lavoriamo le cose non andranno certamente meglio, sia che siamo stabilizzati sia soprattutto che non lo siamo, perché comunque soprattutto all'interno della scuola sono ancora più dense le nubi che si vedono all'orizzonte, sono dense e sono nere, e già noi possiamo capire insomma di che si tratta, a parte appunto dicevo i proclami, l'edilizia scolastica. Fra l'altro Renzi ha mandato una lettera ai 8.000 sindaci in cui dice segnalatemi una scuola, un Twitter, sì, lui Twitter, no, basta. Quella è stata una cosa veramente vergognosa, a parte che insomma volevo così dirti che Renzi non beve alcolici, quindi ecco, l'ho letto, quello dice che beve Coca-Cola, quindi quello che beh, dice fa male, fa peggio, fa molto peggio la Coca-Cola. Quindi secondo me fa peggio, perché un moderato consumo di alcolici, insomma, secondo me un buon vino, insomma, un non vino mai rosso che non dà acidità non può fare solo bene. E quindi ha mandato questa lettera dicendo segnalatemi una scuola che io intervengo, un po' lettera, tweet, non so, questo tweet alle 7 di mattina, quindi e se il buongiorno appunto si vede dal tweet del mattino, e noi adesso andiamo ancora a spulciare tra le nomine che questo governo ha fatto, in particolare proprio fa sottosegretari e sottosegretarie dell'istruzione, che appunto non è manco più pubblica, ma è così, istruzione. Prima di arrivare ai sottosegretari vorrei dire una notarella su questa cosa. Io vi ricorderei che Renzi, quando ha parlato al Senato per ottenere la fiducia, ha parlato 5 minuti buoni di questo fatto del grande piano per l'edilizia scolastica, che dal 15 giugno al 15 settembre avrebbe risolto tutto il problema dell'edilizia scolastica malmessa. Tutto questo che sembrava il grande piano per il risanamento e anche per il lavoro, fra l'altro, certo, sì, è diventato che adesso così un rapporto 1-1 tra lui e i vari sindaci, entro il 15 marzo, quindi senza nessuna indagine reale, i sindaci gli devono dare il nome di una scuola, e quella scuola evidentemente vince il concorso delle figurine e ci fanno dei lavori. Poi tutti i comuni uguali, Roma uguale a Pomezia. Cioè, Roma segnala una scuola, poi fra l'altro magari è nei paesi, è la scuola dove va il figlio o la figlia del sindaco, non vogliamo essere insomma, no, ma maligne e maligne, però... Che modo di fare è? Già funziona comunque così, perché che ve credete che perché certe scuole gli pittano tutto a modino e altre scuole gli cascano i controsoffitti in testa? Ci sarà un motivo, no? Cioè come si fa a fare intervenire la provincia, per esempio a Roma gestisce l'edilizia scolastica, perché certe scuole stanno così da decenni e altre invece ogni tanto gli danno una sistemata? Insomma, nella scuola dove sto io, senza fare nomi, hanno fatto grossi lavori, ci sono i bassorilievi, fra l'altro 2 anni fa gli cadde in testa un ragazzino delle medie un bassorilievo di gesso che stava sopra il portone, perché il portone sbatte e il bassorilievo casca. Insomma, vengono fatte anche cose abbastanza inutili così di facciata, e allora uno si chiede, allora Renzi, che è per la politica del fare, istituzionalizza giustamente questa cosa, per cui non è più fatto una cosa ma il sindaco decide lui o lei quale scuola ha vinto il concorso, che non è stato mai bandito, e tutti contenti. Sì, alla faccia della trasparenza, no? All'oggettività, certo, le graduatorie, i parametri, eccetera. Il merito. L'anagrafe dell'edilizia scolastica. Sì. No, la cosa che ci ha sorpreso e che abbiamo sottolineato anche la scorsa volta come adesso è che questo personalismo, no? Che riesce anche a entrare nella messa insicurezza degli edifici, che è una cosa, come dire, dove c'è molto da ragionare, da agire certo, ma da ragionare. E le cifre sono incredibili, vediamo un po' come rispondono questi sindaci e come lui gestirà tutte queste, cioè quante segretarie dovrà assumere per poter ricevere, oppure no, forse col Twitter basta. Immagino la faccia di Marino quando gli è arrivato il tweet che con tutti... Marino, vediamo quale scuola facciamo, lanciamo un concorso, segnalate voi la scuola e noi diciamo, giriamo a Marino. E Marino, detto questo, avevamo già, come dire, accennato allo sproloquio, no? Alle parole in libertà che da Renzi fino alla neoministra Giannini producono. Infatti ancora prima di entrare, no, di avere la fiducia da tutti e due i rami del Parlamento, erano già, come dire, in pieno possesso delle scrivanie, e quindi la Giannini ci aveva informato delle sue idee, prima tra tutte liceo a 4 anni, per cui andiamo, diciamo, e da lì giù a cascata tutte le altre perle, e le perle siamo andati a cercarle realmente. E prima di parlare delle nomine dei sottosegretari, come dire, mi pare il caso di sottolineare l'attività, i meriti della ministra Giannini in questi pochi mesi in cui è stata prima eletta e poi arrivata al ministero di Viale Trastevere. Si è distinta, diciamo, ha del merito, lei non è lì a caso, perché nel luglio dell'anno scorso, del 2013, quindi dopo pochi mesi dall'entrata in Senato, lei faceva parte, ha subito fatto parte della Commissione Senato sull'istruzione pubblica e beni culturali, quindi è quello il suo ramo. E ha presentato 4 disegni di legge come prima firmataria, quindi, come dire, è i suoi cavalli di battaglia. Il principale è questo del 9 luglio del 2013, il numero 933, questo disegno di legge che si intitola Nuova Governance. A proposito della lingua italiana, lei vuole che la lingua italiana sia costituzionalizzata, cioè venga inserita l'uso della lingua italiana nella Costituzione. È un altro disegno di legge che ha firmato, però diciamo il titolo della sua nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome. E sono 16 articoli, prima firmataria insieme a Casini e altri, prima firmataria di 16 articoli che recitano questo, diciamo, riprendendo tutto il lavoro fatto da Valentina Prea, che chi segue questa trasmissione conosce e chi vive nella scuola anche sa, è il caso di, come dire, rendere più funzionale, più efficiente sia la Costituzione sia l'istituzione dell'istruzione pubblica. E quindi questi 16 articoli presentano la sua ricetta, la sua vecchissima peraltro ricetta, che è quella della libertà di scelta. I primi articoli parlano della libertà di scelta delle famiglie, che significa parità, che significa fondi ulteriori alla scuola privata cattolica, la riforma dello stato giuridico dei docenti, di cui già abbiamo parlato, il federalismo scolastico, significa il rapporto tra scuole e regioni e quindi l'ingresso di consorzi, reti, eccetera, dentro la scuola, la valorizzazione dell'autonomia professionale dei dirigenti, che si può leggere come il dirigente che si sceglie la propria squadra, proprio come, no? Renzi primo sceglie la sua squadra. E poi tutto quell'apparato, no, che vuole trasformare la scuola in azienda, ovvero consiglio di autonomia al posto consiglio di istituto, il consiglio dei docenti al posto del collegio dei docenti. Ma è proprio la Prea, cioè la ripresa è la Prea. Beh, lei lo dichiara, diciamo, negli intenti, nella premessa a questo disegno di legge, lei nomina la Prea e quindi tutto il bel lavoro fatto è andato. La Prea di Forza Italia. Vabbè, ma lei è sta di all'opposizione. Ah, vabbè, ma questo è un altro concetto. Poi no, vabbè, queste vecchie connotazioni ideologiche. Si prende il buono dov'è? Il buono, cioè il cattivo dov'è? Mi pare che ci siano riusciti. E quindi il nucleo di valutazione, tutto quello, no, che aveva prodotto questa minima protesta lo scorso anno, perché nelle 24 ore, no, contro 24 ore, in realtà poi era stata fatta entrare anche il progetto Aprea, che era proprio questo, e che quindi poi era stato travolto di fatto, così un po' sorprendentemente, e lei lo ripropone completamente. E ovviamente il suo punto di forza è il suo chiodo fisso sono le scuole paritarie, e come vedremo anche la nomina dei suoi collaboratori è come dire, dettata da questa attenzione. Quindi come dire, non è casuale che lei, la ministra, sia di Scelta Civica e anche chi collabora con lei venga dallo stesso mondo. Infatti, non so, noi ci aspettavamo che per esempio fosse riconfermato per la terza volta il maestro di strada. Rossi Doria, ma in realtà c'è stata una conferma che è Toccafondi, che era la peggior faccia che Letta aveva presentato nella pubblica istruzione, perché Comunione Liberazione, basta. Sì, da studente rappresentante dell'Università di Firenze come nella lista di Comunione Liberazione, poi tutta una carriera nel PDL, come dire, sul solco della viva la famiglia, viva la libertà di scelta, tra virgolette, ovviamente. Viva. E aboliamo il senza oneri per lo Stato, perché anche se non significa nulla, però è sempre meglio toglierlo dalla Costituzione, perché ancora un po' di impiccio dal 2000 ad oggi ancora lo dà. Però come primo atto, diciamo, c'è un finanziamento delle scuole private che è stato più che raddoppiato, quindi diciamo i risultati si vedono immediati. Posso aggiungere una piccola un'adozione, perché insomma io ogni tanto voglio ricordarlo che all'epoca del compromesso storico i militanti del PC dissero: non vogliamo morire democristiani, cioè non credo di dover aggiungere altro. C'hanno un segretario nonché presidente del consiglio che più democristiano di così non so come potremmo trovarlo, DCL, proprio tutto quello che vi pare, quindi insomma morirete peggio. Cioè il problema è che forse ci moriremo pure noi, ma almeno noi non ci abbiamo creduto allora e adesso continuiamo a cercare di fare qualcosa. E tutto ciò avviene paradossalmente nel giorno in cui si entrano nel Partito Socialista Europeo, no? Quindi certo, è proprio una presa in giro apocalittica. No, io volevo invece leggere questa, fare un piccolo indovinello a voi che state qui e a chi ci ascolta, e dirmi il profilo della persona che pronuncia, che scrive di sé questo. Non è Renzi, vi dico. Ma si capisce subito. Sono innanzitutto una moglie, una madre ed una figlia, convinta che l'istituzione della famiglia rappresenti le fondamenta della società italiana e ne ispiri i valori basilari. Sono un'imprenditrice, una lavoratrice chiamata ogni giorno da quasi 30 anni a fare i conti con una realtà sociale ed economica sempre più articolata. Il suo territorio dà molte possibilità e lei ha solo le stesse opportunità che ho saputo cogliere a soli 22 anni entrando nell'azienda fondata da mia madre negli anni 50. Dove mettereste questa persona? In parrocchia. In galera. A Confindustria, non so. La terza è la risposta esatta. Questa signora, che ha una cinquantina d'anni e è a capo della sezione moda della Confindustria di Bari, e invece è a Viale Trastevere, e non a vendere i vestiti che produce peraltro nell'industria tessile, non in un negozio di Viale Trastevere. È moda maschile, perché lei è moglie, madre, figlia, quindi fa i vestiti per i maschi. Sì, ma non è donna, è moglie, madre e figlia. Ma donna già impegnativo. Ancora la devono fare. E quindi E quindi niente, no, a Viale Trastevere ai piani alti del nostro del ministero. E non sa nulla di scuola, nel senso che non si è occupata nella sua brevissima carriera. Diciamo che lei entra in punta di piedi, no? Lo dice quando si è candidata in Puglia al Senato per Monti, per sempre Scelta Civica, si chiama così, Scelta Civica. È stata, come dire, sorprendentemente eletta a sua insaputa, e dunque a sua insaputa, dopo qualche mese, diciamo, è stata inserita nella commissione industria, turismo. Si è occupata come relatrice in commissione, appunto, dell'industria, commercio, ovviamente il turismo, sulle attività subacquee iperbariche. Ha presentato un'interrogazione parlamentare, questo per dire, no, il suo lavoro nel luglio 2013, quando ancora, come dire, non si sapeva cosa avrebbe fatto da grande. Una richiesta di attuare il piano nazionale della famiglia, definendo tempi e soprattutto risorse certe, quindi anche qui la fissazione della famiglia. Lei si ritrova adesso ad essere la sottosegretaria della ministra Giannini, e intanto ha lasciato Monti perché è troppo moderato, forse, non lo so, ed è passata con Per l'Italia, si chiama, che è Casini sostanzialmente, quindi un grosso movimento, sì, di popolo, dal centro al centro. Diciamo, stessa competenza, stesso merito. Scusa, manca il nome però di questa signora. Ah, scusate, sì. Angela Donghia, andate a vedere chi è, ed è quella che adesso gestirà tutte le grane sostanzialmente che arriveranno, che sono al Ministero dell'Istruzione, insieme a Roberto Reggi, PD, finalmente uno di sinistra. ripeto, toccafondi, PDL, NCD, vabbè, la stessa cosa, perché forse, vabbè. E ministra Scelta Civica, sottosegretaria Scelta Civica, ma adesso Casini. E PD, invece, finalmente un PD, Roberto Reggi, che anche lui si trova a Viale Trastevere non per la distribuzione e la produzione di energia elettrica, non c'è un'interruzione di corrente a Viale Trastevere, ma anche lui nella stanza accanto, venendo come grossa esperienza, diciamo, 10 anni di sindaco di Piacenza. È stato il coordinatore della campagna elettorale di Renzi, quindi grosso amico di Renzi, e questo basta per collocarlo. Ma sì, poi lo dicevamo, no? Al di là di tutto, lo abbiamo detto in tante trasmissioni, che questo governo è proprio ancora di più, secondo il manuale Ciancelli, che era quello con cui si distribuivano i posti di ministro, sì, e sottosegretario ai tempi dello strapotere democristiano, in base alle correnti della democrazia. È la stessa identica cosa. Io voglio capire una cosa, ma dentro, pur dovendo dare i posti equamente o più o meno distribuiti, ma uno meglio che ne so, che ha fatto il professore, una cosa del genere, proprio non l'hanno trovato. No, evidentemente non l'hanno trovato. E, ripeto, appena sento parlare Renzi e tutti gli altri, però diciamo Renzi basta, di merito, basta vedere questo per fare innanzitutto una pernacchia, e poi per confermare il fatto che non c'è nessun altro criterio se non quello dell'equilibrio, precarissimo se vogliamo, però equilibrio, che alcuni sperano poi ci porterà duri 2 anni, 3 anni. Comunque ho capito qual è il comune denominatore, perché Renzi, come spesso dice alla moglie, che è precaria insegnante, non so, sì, bene, sarà 52 o 51, quindi così. Pensavo maestra d'asilo, ho sentito, quindi questo è il punto unificante, quindi lui sa di scuola, perché la moglie gli dirà quando lo vede, insomma, o gli twitterà. Temo che il punto edificante sia un altro, perché un altro pallino della ministra, e poi chiudiamo, oltre a quelli che sono stati elencati, è il merito. Il merito che, come lei stessa scrive in un documento che sono andata a ripescare, merito che è inteso contro l'idea egualitaristica della scuola. C'è un documento che vi potete leggere, perché appunto la Giannini era responsabile scuola di Scelta Civica prima di diventare ministra, e quindi ha scritto e ha fatto interventi sulla scuola, in particolare ha risposto a una Tutto Scuola, che è una, un sito internet insomma che parla di scuola, aveva posto a tutti i partiti la domanda insomma di presentare le loro idee sulla scuola, e per Scelta Civica ha risposto la Giannini. Si trova appunto, questo è successo a settembre, quindi a settembre 2013, insomma non nel Paleolitico, e lei scrive una cosa molto lunga che vi potete leggere sul sito di Tutto Scuola, un paragrafo si intitola Merito versus egualitarismo, lei sostiene qua che l'idea per cui la scuola deve essere uguale per tutti è un'idea che va superata perché non tutti devono fare l'università, perché non, questo non ha senso, perché nella scuola, perché quest'idea è vecchia del figlio dottore, evidentemente solo i suoi figli devono fare l'università e quelli degli amici suoi, e ma lo scrive in maniera anche piuttosto chiaro, insomma non è che ci gira molto intorno a quest'idea, e tant'è vero che poi lo ritroviamo anche in un altro documento suo, non per nulla pubblicato sul sito di Pietro Chino, che ci vorrebbe il nitrito di Frankenstein Junior, sì, e un intervento appunto della Giannini quando era ancora rettore dell'Università di Perugia, quindi del 2012, in cui anche qui dice che ci sono due parole che vanno analizzate bene nell'istruzione in generale, qui parla dell'università ma insomma più o meno siamo lì, queste due parole sono competizione e cooperazione. Ecco, lei dice la competizione stimola condizioni di concorrenza, la cultura della cooperazione mira all'inclusione sociale, università di massa con libero accesso per tutti, ma spesso dice diventano università svalutate, e quindi quest'idea cooperativa dell'istruzione per cui l'istruzione deve essere aperta a tutti e a tutti va superata, è sbagliata. Questo dice il ministro della pubblica istruzione in Italia, un paese che non raggiunge i livelli richiesti dall'Europa di numero di laureati e diplomati. Noi dovremmo arrivare al 20% di laureati per il 2020 e siamo intorno al 12%, però evidentemente siamo pure di massa. Infatti è una contraddizione forte. Poi c'è anche il discorso che a sentire lei la laurea la regalano, cioè tu vai là e passi e ritiri la laurea, cioè, mi sembra che sia esattamente così. No, non è esattamente così, e comunque la laurea la regalano loro, cioè lei sta parlando di se stessa, dell'università svalutata di cui lei è rettrice o rettore o come vuole dire, insomma. Sì, insomma, ecco, credo che queste scelte, cioè quando si prendono due persone di Scelta Civica, un renziano e uno di CL, e poi si sentono questi discorsi, queste sono esattamente le forze politiche che più vogliono falcidiare un'idea di uguaglianza sociale, perché lo dicono continuamente. Sì, almeno hanno il pregio di dirlo chiaramente. E quindi c'è stata un'occupazione, Viale Trastevere è stata occupata da questi, e quindi bisogna un pochino liberarla, non so, partendo da un tweet di mattina, e adesso poi dopo ci ritroveremo tutti con, non lo so, le bandiere di i crocefissi davanti al Ministero della Pubblica Istruzione. Noi direi che la giustizia, come dire, c'è... la mano di Berlusconi, all'economia c'è l'Ocse direttamente, e al Ministero dell'Istruzione hanno messo il Vaticano, chi comunque protegge gli interessi di questi qui. Il Vaticano e Confindustria ci hanno messo. Industria, certo, e ovviamente la scuola è ancora un luogo dove fare molti molti soldi, quindi diciamo attenzione. Sì, ci sono ancora circa una cinquantina di miliardi l'anno spesi per la scuola, se li sviamo tutti da altre parti sono tanti soldi. Prego. No, dico come abbiamo imparato dalle lavoratrici delle pulizie nelle scuole, perché poi dopo il discorso va a finire sempre lì. E con questo vi salutiamo, l'ora di buco vi saluta, vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 16. Oggi è un martedì particolare perché non andrà in onda propriamente il martedì autogestito da femministe e lesbiche, perché invece ci sarà tutta la giornata dell'8 marzo gestita dal martedì autogestito da femministe e lesbiche, e quindi ovviamente vi invitiamo comunque a seguirci e a seguire insomma anche nelle prossime ore alla radio, e stasera vi invitiamo nuovamente tutte e tutti alla festa di carnevale di Radio Onda Rossa.